Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento di oggi con il calcio internazionale è anche un appuntamento con il calcio di casa nostra, perché il Milan per esempio ha appena annunciato l'acquisto di Van Bommel dal Bayern di Monaco, il Napoli è sul punto di annunciare quello di Ruiz, centrale dell'Espagnol difensivo, dell'Espagnol di Barcellona. Abbiamo molti frammenti interessanti da ascoltare di Michel Platini, che ha tenuto stamane un lungo incontro con la stampa a Coverciano, nell'aula magna del settore tecnico federale. E poi ci sarà ovviamente l'appuntamento con Fabio Tavelli anzi, io, visto che il collegamento è stato perfezionato, darei subito il bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Dunque, tra 6 giorni finirà anche questo mercato, no? E quindi credo che tutto riprenderà, anche da un punto di vista televisivo, un assetto più normale. Che dici? Sì, certamente sì. Devo dire che almeno queste stanno diventando giornate un po' più ricche, nel senso che dalle indiscrezioni ai pur parlé stiamo arrivando a qualche trattativa chiusa e poi, insomma, in generale a Rederazione, nel senso che ormai le strategie delle squadre sono abbastanza ben delineate, c'è chi può spendere e quindi legittima che si facciano dei nomi, chi non può spendere e quindi magari sogna delle opportunità. Credo che come al solito si arriverà molto vicino alla data dello spirare, cioè il 31, e quindi ancora qualche colpo verrà portato a casa. Francamente è qualche stagione che seguiamo il calciomercato e pur senza impazzire per questa cosa, sinceramente i grandi colpi, quelli che hanno fatto cambiare i destini di una squadra, appartengono a un altro mercato, che è quello estivo. Però certo, si può correggere, si può migliorare, in alcuni casi si può anche peggiorare, e quindi aspettiamo con curiosità questi ultimi giorni. E non mettiamo mai limiti alla provvidenza. Quelli mai. Ecco, più tardi, dicevo, ascolteremo Michel Platini, anzi forse un frammento lo ascoltiamo tra poco, perché tu stesso mi hai suggerito di ricordare oggi due compleanni del 25 gennaio per l'appunto. Uno l'ho appena sentito in onda a Sky Sport 24 e sono i 70 anni di Giovanni Galeone. L'altro vorrei che fossi tu stesso a dircelo, perché una settimana fa ha compiuto 40 anni Guardiola e evidentemente gennaio è un mese da Barça. È un mese da Barça perché compie gli anni Xavi, 1980 per lui, quindi insomma stiamo parlando di un giocatore che è nel pieno della sua forza, cioè in un momento fantastico della sua carriera, però insomma cominciamo a parlare già di un giocatore che qualche primavera ce l'ha, per cui insomma stiamo parlando di un 31enne, un direi splendido 31enne che compie gli anni oggi, quindi insomma, secondo me chi ama il calcio idealmente gli auguri a Xavi li deve fare. Guarda, glieli facciamo fare attraverso questo frammento che abbiamo colto stamane dal lungo incontro con la stampa di Platini a Coverciano, dicevo, in cui Platini parla per l'appunto di Xavi, mancato pallone d'oro. Sentiamo. L'Europa si ritrova orfalina di un premio europeo, e per quello che io penso a fare un premio europeo sulle stagioni precedenti, non a Natale ma a agosto a Monaco, perché non c'è più un premio europeo, l'hanno tutti un premio, il mondo, tutte le altre confederazioni, l'Europa non ha più niente, dunque penso a fare un premio europeo adesso. Sì, Messi è il giocatore più bravo in assoluto, ma l'anno della Coppa del Mondo io l'avrei dato in spagnolo, visto che sono campioni del mondo, e dunque l'avrei dato a Xavi, eccolo qua il pallone d'oro di Michel Platini, che appunto, hai sentito, ha rimesso le cose a posto, cioè tradotto in rivalità, visto che la FIFA ci ha espropriato del pallone d'oro, che è sempre stata una cosa dell'UEFA e comunque una cosa strettamente europea, noi ne facciamo un altro e lo assegneremo ad agosto, quindi in maniera anche più tempestiva per premiare la stagione precedente, no? Sì, questo secondo me è giusto, mi interessa di più il premio in estate, anche se magari l'audience mediatica magari è un po' più distratta, ma non è neanche tanto così, cioè nel senso che a giugno secondo me l'attenzione è ancora forte. Il pallone d'oro si assegna a fine anno, ormai in realtà nei primi giorni di gennaio, quando forse la concentrazione degli sportivi dei tifosi è più alta. Prima France Football lo assegnava ai primi di dicembre, quindi diciamo che sotto Natale faceva un certo effetto. Però è vero, arrivava a metà di una stagione, quindi poteva prendere poteva abbracciare due periodi temporali con in mezzo l'estate. Darlo a giugno secondo me è più intelligente. Cioè Platini dice una cosa molto intelligente. Sul fatto della FIFA e dell'UEFA secondo me invece no, cioè lì sono un po' meno d'accordo, nel senso che comunque l'UEFA fa parte della FIFA e quindi la FIFA, che ne possa pensare Platini, che ha evidentemente sempre un pensiero di grandeur molto, molto ampio, l'UEFA sta nella pancia della FIFA, quindi il premio della FIFA è un premio che abbraccia tutto il mondo. Se lui vuole dare un premio europeo, ben venga, per carità, più premi ci sono più ci divertiamo, lì si può discutere. No, ma era molto ironico, l'ho sentito. Non vedevi la faccia. No, l'ho sentito, sai cos'è? È che il raffreddore attenua vagamente i connotati ironici. Paolo Ranovara ci ricorda che anche Robinho oggi compie gli anni e sono 26 se non 27 se non erro. Fabio, parliamo di questo caso, di questo fuori onda di Sky Sport britannico, perché mi sembra carina, cioè campeggia su tutti i quotidiani di oggi e non può suscitare imbarazzi di come dire di categoria o di non uso volutamente la parola corporazione, perché in Italia da quanto punto di vista una sciocchezza del genere nessuno, ma né a Sky né altrove, l'ha mai commessa. Raccontacela e poi la commentiamo. No, se l'ha commessa non ce n'è traccia. Il racconto è abbastanza facile. Partita Wolverhampton contro Liverpool, guardaline femmina, la signorina Messi, tra l'altro scritto Massey. Sì, però si pronuncia in quel modo, esatto. Messi. Fa abbastanza sorridere questo. Shane Messi, tra l'altro molto brava, anche molto graziosa, se può interessare, credo di no, ma comunque molto, molto graziosa nel senso di piacevole alla vista, con questa bandierina molto correttamente utilizzata nelle chiamate dubbie, ad esempio su un gol di Fernando Torres, giustamente tenuta abbassata. L'ironia dei colleghi, che si chiamano Keyes e Gray e che sono la coppia regina del canale inglese di Sky, è stata un po' greve, nel senso che sono stati beccati, probabilmente loro sono tolti le cuffie, sono un attimo rilassati durante la pubblicità e hanno cominciato a fare discorsi un po', diciamo, vagamente maschilisti. Te riassumo un paio. Le donne non capiscono il fuorigioco. Sì, sì. La presenza di una donna può distrarre i maschi dall'eccitazione facile. Ti rendi conto? Una donna guarda linee, ma le donne non conoscono la regola del fuorigioco. Certo che no. Vedrai che oggi ce ne sarà uno bello grosso e Kenny Dalglish, allenatore del Liverpool, perderà la testa. Eccetera, eccetera. A me sembra che vado indietro, perché lo scorso anno uno di questi due aveva pesantemente ironizzato sulle scarpette rosa di Theo Walcott, no? Giocatore dell'Arsenal, in una partita di Champions col Barcellona, e insomma era andato giù un po' greve anche su questo argomento. Morale, dato che era recidivo, il direttore di Sky britannico Bernie Francis li ha sospesi con effetto immediato, il che vuol dire che io questo lo trovo giusto, perché vuol dire che chi sbaglia paga indipendentemente dal posto che occupa e dal ruolo che ha. Trovo giusto anch'io, nel senso che ieri sera c'era la partita tra il Bolton e il Chelsea ed erano designati loro per commentarla e hanno avuto un lunedì di libertà, forse potranno anche un po' riflettere su questi discorsi un po' da caserma, ma devo dire di bassa caserma, certo. Intendiamoci. Facciamone uno di alta caserma, Fabio, perché tu hai detto prima che questa guardalina è graziosa, hai scatenato qualcuno, in particolare Roberto da Roma, che ti domanda se dal vivo è più bella la Zamparo o la D'Amico, e così impari a dilungarti sull'eterno femminino regale. Allora? È veramente difficile. È un bel derby. Posso dire questo, così me la cavo, sì. spero parlare. Speri, vediamo. Molto, entrambe molto più carine dal vivo rispetto a come le vedete in televisione. Cioè, trovo che siano due espressioni diverse, sia di femminilità che di bellezza, ma che pur essendo gradevolissime evidentemente in video, fuori onda, con un jeans e una maglietta siano, ne guadagnano ulteriormente. Siccome so che me l'hai conosciuto anche tu, secondo me la pensi così anche tu. Assolutamente sì. Grazie a Fabio per questa digressione, poi arriviamo al clou di giornata subito dopo il traffico. Il consueto giro d'Europa in compagnia di Fabio Tavelli oggi parte da Londra, parte dal Chelsea, perché c'erano timori, visto il momento nero del Chelsea, anche sulla trasferta con il Bolton, e invece il 4-0 finale e il sollievo, la qualità della prestazione e il sollievo ambientale autorizzano questa frase finale di Carletto Ancelotti, che dice: finalmente abbiamo svoltato. Sarà così davvero? È possibile per due motivi. Intanto perché il Bolton in casa aveva un rollino di marcia davvero, davvero eccellente, quindi era davvero un grande avversario per il Chelsea. Il Chelsea non poteva più sbagliare, perché i punti di stacco al Manchester United stavano diventando in doppia cifra, e questo vuol dire essere costretti a uno sforzo forse addirittura sovrumano, con molte squadre davanti, tra l'altro, per una remontata francamente difficile. Ho visto la partita ieri mentre ero in conduzione, quindi abbastanza, anche se non tutta. Mi è sembrato un Chelsea un po' aiutato da Jaska Leinen, il portiere del Bolton, che ha preso un paio di gol, i primi tre, con qualche responsabilità. Drogba fa un grande tiro, fa una grande giocata sulla prima azione, però ha una prateria davvero davanti a sé, tira una sassata però dritta, e non mi pare, vista da dietro, che il pallone abbia avuto un effetto Jabulani, quindi mi sembra grossa responsabilità da parte del portiere. Comunque resta la prestazione, che è una prestazione solida, che è una prestazione eccellente, che è forse una delle prestazioni più vicine a quelle del Chelsea prima maniera, cioè quello dell'inizio del campionato. Nonostante qualche momento di imbarazzo da parte di Cech, che non è veramente, rimane un grande portiere, ma non è veramente più tornato quello di prima, nel senso che ogni tanto ha qualche amnesia, mi sembra che la difesa abbia tenuto, che peraltro la difesa è uno dei problemi che Ancelotti non ha da questo punto di vista. Non c'era Lampard, il Bolton era una squadra forte in casa, che festeggiava, ricordava, onorava la memoria di un suo vecchio giocatore morto a 84 anni il giorno prima, e quindi c'era il clima per festeggiare tra virgolette, insomma, per onorare questa memoria. E invece il Chelsea pronti via 1-2-3-4, tra l'altro i primi tre gol fatti tutti con quasi in rima, cioè Drogba, Malouda e Anelka, direi bene. Insomma, un Ancelotti che si era tanto presentato alla partita un po' da zimbello, perché su internet aveva spopolato questo video meraviglioso. Che insomma lo sapete tutti, insomma, ritratto Ancelotti allo stadio, uno stadio vuoto nel quale si sarebbe disputata la sfida tra le squadre giovanili del Chelsea e dell'Arsenal, e pur in uno stadio vuoto, e credo che Ancelotti da persona normale, come avremmo fatto tutti, si è seduto in un posto che gli sembrava comodo, è arrivata una signora locale di Londra con un biglietto, e l'ha fatto alzare lui molto educatamente, non è che si è messo a sbraitare, ha riconosciuto che la signora era titolare del posto, si è alzato e è andato da un'altra parte. La cosa ha fatto abbastanza ridere, onestamente. Sì, questo è certamente vero. Ci sono gli altri tre gol di Berbatov, che mi pare sia arrivato a 17 in 19 partite, sì. Il che vuol dire che adesso, per carità, non è che si può dire che Ferguson abbia davvero possiede il segreto dell'individuazione ad ogni costo, però insomma c'era stata qualche perplessità su Berbatov in questi anni. Lui ci ha sempre investito, ci ha sempre in un certo senso scommesso, adesso i fatti gli stanno comunque dando ragione. Ma la cosa curiosa è che secondo me questo è un grande giocatore, perché ha dei colpi decisamente sopra la media. Mi è sembrato fino all'anno scorso un po' indolente, intanto è uno che non ride mai, però vabbè, ce ne sono anche altri che non ridono mai. Mi è sembrato sempre abbastanza abulico, sai, di quelli che si accontentano della giocata, ma poi fossimo nel pugilato non doppiano il colpo, cioè dà un grande pugno e dice: guarda che bravo che sono stato, però magari bastava darne un altro piccolo e buttavi giù l'avversario. Quest'anno ha anche la fortuna di trovare un Rooney che non vede mai la porta, ma è molto utile, risponde, è molto utile nel dialogo, e sta trovando lui la via della porta. La via della porta lui l'ha sempre trovata, ma mai con questi numeri. Insomma, a me non sorprende che Berbatov faccia così tanti gol, perché lo considero davvero un giocatore molto forte. Pensavo che ormai fosse passato il suo periodo migliore, cioè che fosse in una fase. Fosse passato l'attimo, esatto. Ed è in questo che è stato, secondo me, bravo Ferguson. Stiamo parlando di Ferguson. Esatto, a capire che un giocatore di quella qualità all'attimo doveva arrivare prima o poi, quindi gli è arrivato. Ha segnato, mi informa Franco Piantanide che con i numeri se la cava, ha segnato in 2 anni 22 gol in Premier e adesso 17 in questo, e quindi eccolo il decollo. Sì, a parte che alcuni ascoltatori segnalano un cattivo ascolto, da cattivo a nullo a Udine, zona comunque deve essere colpa del mio naso, Gigi. Potrebbe essere Alex, per esempio, l'ultimo che lo segnala, ma certamente non è il primo di oggi. Allora, come sempre, lo dico a voce alta, proprio perché in genere in questi casi basta segnalare e si provvede in tempi brevissimi. Non possiamo permetterci di perdere Udine, perché abbiamo una quantità di fedelissimi davvero impressionante. Senti, beccati quest'altra così impari. Pat, giustamente invoca la par condicio e chiede se dal vivo è più bello Mourinho o Leonardo. Guarda, io ho visto e conosciuto Leonardo, dal vivo non ho avuto il piacere di vedere Mourinho, poi sono leggermente più in difficoltà da questo punto di vista, quindi trovo Leonardo una persona molto affascinante, lo trovo anche Mourinho molto affascinante, sì. Intendiamoci, quindi onestamente non mi schiero nemmeno qui. Bravo, non andiamo. Senti, Mourinho, notizia di agenzia di stamane. Allora, Perez avrebbe già dato, Perez nel senso di Florentino, avrebbe già dato mandato dal presidente Real Madrid al suo direttore generale Jorge Valdano, che come è noto ha qualcosina da eccepire su Mourinho, non come tecnico ma come persona, gli avrebbe già dato mandato di esplorare il mercato per trovare un sostituto eventuale a fine stagione, sia per sostituirlo loro come società, sia nel caso in cui Mourinho avesse in testa un colpo tipo quello che ha fatto l'altro anno all'Inter, e avrebbero individuato 4 soluzioni che sarebbero Ancelotti, Rafa Benitez, Laurent Blanc e lo spagnolo Michel Gonzalez, che adesso tu ci aiuterai a dire da dove arriva. Secondo te è credibile che la pre-rottura sia arrivata a questo punto o gli spagnoli ci stanno marciando un po'? Ma secondo me vale un po' tutto, nel senso che José Mourinho non è nuovo a queste situazioni. Devo anche dire che lui andò via dall'Inter annunciando prima Moratti, prima della vittoria del triplete, quindi da questo punto di vista credo che farà lo stesso con Florentino Perez, nel senso che è molto probabile che lui abbia già deciso che cosa farà l'anno prossimo. Da un lato gli spagnoli ne hanno un po' piene le tasche, no, sicuramente la stampa sì, il pubblico no, nel senso che il pubblico di Madrid, la parte più calda, adora e stravede per José Mourinho. Credo che, insomma, se è vera questa cosa, Jorge Valdano avrà appreso con composto dolore questo desiderio da parte del presidente, perché credo che tra i primi ad essere, se Valdano ha, ma come avrà, una bottiglia di una buona annata, potrebbe anche averla già aperta una volta capito questo. Trovo che sia tutto comunque molto prematuro, ma per due motivi. Intanto perché dipende molto dai risultati, come al solito, e che vanno letti in una doppia chiave, cioè se Mourinho ottiene subito risultati va via sicuro, perché anche lui mi pare di capire non abbia più tutto questo piacere di restare a Real Madrid, forse anche per una situazione ambientale che ha contribuito abbastanza lui a creare. Dall'altra parte, se non vince, è forte anche di un contratto che non è lunghissimo, ma comunque è lungo, può dire va bene, cerco di rimanere per far vedere che vinco. Insomma, il Real Madrid non ha una buonissima tradizione nelle ultime annate di Champions League, quindi secondo me gli sarà anche abbastanza facile migliorare la posizione degli ultimi anni. Quello che succederà, secondo me, lo scopriremo ad aprile, perché mi sembra che non sia ancora ora. Senti, Valentino scrive da Udine, e questo è un buon segnale. A Gonzales è l'allenatore del Getafe. Com'è? A Gonzales è l'allenatore del Getafe, sì. Perfetto. Valentino segnala da Udine, che è una buona notizia, perché vuol dire che da Udine l'ascolto è migliorato, che Ferguson, a proposito di fiuto, voleva ad ogni costo Sanchez già 2 anni fa, prima che esplodesse, quindi una conferma in più. Ma lui portò Giuseppe Rossi. Ecco, apposta. E se qui è telepatia, perché io volevo proprio chiudere con con Giuseppe Rossi, con la sua doppietta col Villarreal, e con questa considerazione: non è colpa di Balotelli fino ad ora, perché Balotelli ha avuto e ha tuttora purtroppo una ricaduta a un ginocchio, quindi ha problemi seri di fisici, però questo sembrava essere l'anno in cui Balotelli all'estero faceva un'esperienza che poteva servire alla nazionale italiana. Per il momento questo, anziché Balotelli, lo sta facendo Peppino Rossi, mi pare. Sì, tra l'altro non è la prima volta, no, nel senso che Giuseppe Rossi è veramente un crack, è un grande giocatore, è un giocatore di sicurissimo presente. Io faccio veramente fatica a parlare di lui come un giocatore di avvenire, perché questo cioè l'avvenire è già oggi, cioè Giuseppe Rossi è un grande giocatore del calcio europeo. Mi auguro che venga tenuto nella giusta considerazione nonostante giochi all'estero, ma credo proprio di sì, perché per fortuna è passato il tempo nel quale i commissari tecnici non chiamavano i giocatori che si esibivano all'estero. Trovo non sia facilissimo da accoppiare con un altro attaccante, nel senso che forse non c'è un altro attaccante che abbia caratteristiche giuste per essere accoppiato a lui. Per il resto stiamo parlando di un grande giocatore. Ieri sera ho avuto anche il piacere di chiacchierare con Gigi Buffon di futuro della nazionale, e insomma anche lui conveniva sul fatto: io sì, torno, posso fare il capitano, posso far parte dello zoccolo duro della squadra, ma se vogliamo vincere dobbiamo aspettare che ci portino a vincere Cassano e Balotelli. Lui ha detto Cassano e Balotelli, io mi sono dimenticato in quel momento Giuseppe Rossi, se n'è scordato anche lui, però se consideriamo davvero questi tre, e Cassano non è ovviamente vecchio perché è un 1982, dalla cintola in su, se consideriamo l'attacco, anche se non cioè siamo messi abbastanza bene, sì, come potenziale, per il momento come potenziale dei tre certamente quello già più proiettato, più garantito è Rossi, anche per ragioni caratteriali e per tutto il resto. Fabio, grazie di questa lunga conversazione. A te Gigi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento, lo lasciamo a curarsi questo potente raffreddore, direi. Noi ripartiamo tra poco da Michel Platini e da alcune dichiarazioni molto interessanti su, e poi ovviamente da un po' di arte varia e dai vostri interventi. Dopo i mercati. Peccato davvero per Francesca Schiavone, è stata fatta la maratona dell'altro giorno, o meglio, le ha fruttato un successo storico, una classifica mondiale che dopo la fine di questi Open d'Australia la vedrà al quarto posto assoluto, che è il punto più alto mai raggiunto da una tennista italiana, però le è costata anche una fatica supplementare che l'ha costretta a cedere stanotte con la Wozniacki per 6-3, 3-6, 6-3, nel senso che è riuscita a vincere il primo set giocando un eccellente tennis, ma poi a gioco lungo ha ceduto alla fatica, e con lo stesso punteggio l'avversaria, testa di serie numero uno tra l'altro, si è aggiudicata i due set successivi. Vedo già degli ascoltatori collegati, prima però volevo far sentire qualcuno alcuni di questi interventi di Platini. Comincerei da quello in cui rievoca brevemente la figura a lui molto cara dell'avvocato Agnelli. Ma dell'avvocato ho tantissimi ricordi, perché era stato un grande personaggio, ma quello che mi ha imparato di più l'avvocato è di farmi vedere quando più sei importante più sei semplice. Più sei importante più sei semplice. Correva ieri l'ottavo anniversario della scomparsa dell'avvocato Agnelli. Avete sentito che l'italiano di Platini in questi dunque lui si è ritirato nell'87, in questi dunque 87, in questi 24 anni di ritorno in Francia, quell'imparato invece di insegnato, vuol dire che l'italiano sta un tantinello cedendo. Due ascoltatori e poi gli altri frammenti che sono quelli davvero di sostanza. Saverio Parma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo parlare io un argomento che purtroppo ci vorrebbero non so quante trasmissioni. Volevo parlare della crisi degli spettatori negli stadi. È una cosa a cui ci tengo tantissimo, ho 44 anni, ho frequentato gli stadi da quando avevo 10 anni, che mi portava mio padre. Da quando negli anni 80 che giocava quel signore che ha fatto sentire prima Platini, per arrivare allo stadio ci mettevamo 3 ore, perché altrimenti non avremmo trovato posto allo stadio. Adesso allo stadio ci si arriva un minuto prima e quasi si va a cercare la persona più vicina per prendere un po' di freddo, così per non sentire tanto freddo. Mi dispiace, che vorrei che qualcuno dedicasse una trasmissione, io vorrei, supplico a lei di fare qualche trasmissione su questo argomento, perché per me questo è il vero cancro del calcio, cioè la fuga degli spettatori dallo stadio. Io non so se lei è telepatico oppure se non lo so, oppure se qua le voci girano, non lo so. Allora, fermo restando che da questi microfoni spesso e volentieri ne abbiamo, no, volentieri no, ma spesso, molto spesso ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne ogni volta che ci sono dei dati aggiornati o aggiornabili. Non so, la fine di un giro d'andata, la fine delle stagioni, qualche elemento nuovo per insomma, come dire, che rinfocoli il dibattito, che dia uno spunto d'attualità, siamo sempre pronti a coglierlo. Però in questo nuovo programma televisivo di cui vi parlavo la scorsa settimana, che va in onda il giovedì sera alle 21 su Studio 1 e che è una costola, e ne parlo non per interessi privati nati d'ufficio, ma perché è un programma che è nato come un'emanazione di questo programma di Radio 24, e cioè come il settimanale di questo quotidiano che si sviluppa a questo microfono tra il lunedì e il giovedì. La puntata di giovedì sarà pressoché interamente dedicata proprio al problema degli stadi che si svuotano in Italia mentre continuano invece a riempirsi all'estero, e evidentemente parteciperanno personaggi che porteranno testimonianze e arricchimenti. Ci sarà anche il debutto del nostro amico ed esperto Marco Beninazzo, e così le ho risposto. Il fair play nella versione di il fair play finanziario, ovviamente, nella versione di stamane di Michel Platini a Coverciano. Progetto normale il fair play finanziario, lo fate tutti voi dentro le vostre aziende, dunque anche nel calcio, che perde 1,2 miliardi di euro quest'anno rispetto a tutti i casi, dunque c'è qualcosa da fare, altrimenti tante grandi squadre, tante grandi società spariranno nel futuro se non le aiutiamo a essere normali. Vivi, ma loro lo sanno da 2 anni, lo faremo del 2013-2014, ma sapete il sistema, possono dare i soldi che hanno, non possono dare di più, e questo lo sanno e sono tutti d'accordo su questo sistema. Il fair play finanziario vuol dire non spendere più soldi che prendi, dunque che incassi, dunque mi sembra che una cosa è logica. È una cosa logica, sì. Poi in alcuni flash d'agenzia che sono arrivati, Platini anche da questo punto di vista è stato più preciso e ha detto, per esempio, che modello commerciale è quello rappresentato da un proprietario ricchissimo che entra nel calcio, mette tanti soldi, poi si stupa e se ne va, creando problemi al suo club e agli altri. Non si può avere 1,2 miliardi di debiti, così ho deciso di pensare a qualcosa per regolarizzare la situazione. Abete, presidente federale, ha commentato questo passo dicendo: il messaggio dell'UEFA è di tipo culturale. Il calcio non deve più essere un divertimento per ricchi in grado di ricapitalizzare ogni anno le società, e in futuro questo non può essere il modo di agire. Ci può essere qualche illusione anche a presidenti e a finanziatori italiani, però io credo di riconoscere invece negli sceicchi, in particolare in quelli che hanno fatto razzia di club britannici negli ultimi anni, il principale bersaglio di questa svolta che l'UEFA sta perseguendo ormai da tempo. Franco ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'opportunità come sempre, volevo salutarla, visto che è la prima volta che ci sentiamo nel 2011, e farle tanti auguri. A lei è una delle poche trasmissioni che ci permettono di dare voce, permettono di dare voce ai tifosi. Io l'ho chiamato per quelli che sono, diciamo, gli puri aspetti sportivi, mi trovo d'accordo con lei quasi su tutto, quindi così. E volevo invece fare un'obiezione sulle dichiarazioni del signor Moratti di ieri sulla Gazzetta, che poi è stato anche poco cortese visto l'anniversario della morte dell'avvocato Agnelli, dicendo che ancora le sfortune o quant'altro, le sconfitte dell'Inter si testimoniano dopo Calciopoli diventando vittorie. Invece io sono proprio rammaricato di queste parole, perché dimostra ancora che perde un'occasione per lasciar perdere qualcosa che è passato. che comunque si aspettano sentenze e che abbiamo visto e letto che ci sono tante tante telefonate da parte di tutti, e comunque gli volevo ricordare e sentire la sua opinione, perché questo Inter che ha vinto sportivamente sul campo con delle figure di giocatori meno eclatanti come quando hanno avuto Ronaldo, Adriano, Diaz, Zamorano, Rummenigge, Klinsmann, hanno vinto il gioco di squadra, e non credo che non ha vinto in 45 anni all'estero per colpa della Juventus, di Moggi o di Calciopoli. Voglio sentire una sua opinione. La mia opinione, Franco, è che non ci fosse nessuna mancanza di rispetto nei confronti dell'avvocato, come lei invece ha creduto, ha espresso all'inizio. Primo, perché insomma non si può viaggiare sempre con le agende degli anniversari in tasca. Primo. Secondo, perché si riferiva comunque a un altro periodo e altri personaggi che con i quali, e questo lo ricordo di persona, l'avvocato non intendeva mischiarsi. E mi sembra che sia sufficientemente chiaro questa frase. Leonardo ha chiamato da Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Io... Pronto? Dica, Leonardo. Allora, intanto chiamavo anch'io per un ricordo dell'avvocato Agnelli, che ieri ha fatto l'ottavo anno della sua mancanza, ma anche perché in questi giorni era l'anniversario, mi sembra, di Gaetano Scirea. No, questo dire proprio di no, perché parliamo dei primi di settembre. Allora, mi scusi, io... Prego, prego. Penso di aver ricordato male. Comunque la mia domanda era questa: secondo lei questo fair play finanziario di cui parla Platini è realmente realizzabile? Cioè, alcune società così grandi, grosse, che hanno speso tanto, potrebbero realmente rientrare in tempi brevissimi nelle spese a costo di cedere campioni? E poi questi campioni chi li prende eventualmente? No, ma non è in questi termini, Leonardo. Io mi vedrò piacevolmente costretto, sia ben chiaro, piacevolmente, a rinvitare presto Marco Verinazzo, proprio per ripassare i fondamentali di questo discorso sul fair play finanziario, che è un provvedimento dall'entrata in vigore progressiva e che quindi non comporterà nessun trauma nel frattempo, comporterà soltanto un comportamento più virtuoso da un punto di vista finanziario. Insomma, Michel lo ha detto in quella maniera sintetica sua, e il fatto in realtà poi di non spendere più di quanto si incassa, no, non sarà mai così, ma sarà un riequilibrio di conti tra il dare e l'avere, che in molti casi in Europa, anche di club che vanno per la maggiore, anche di club che e soprattutto di club che vincono e stravincono, questo rapporto oggi è completamente snaturato e non ha molto senso, e toglie credibilità ai trofei, come Platini ha detto più di una volta, e lo disse per la prima volta dopo una finale di Champions vinta da Manchester sul Chelsea, toglie credibilità e rischia poi a gioco lungo di togliere anche futuro. Ultimo intervallo, strade. Torniamo con, ci sono alcuni messaggi, sono anche richieste di informazioni su questo canale televisivo, insomma, cominciamo col dire digitale e non satellite, e poi Il nome, lo ripeto, è Studio 1, però poi non è che possiamo metterci qua a sdottorare stiamo sempre parlando di emittenti concorrenti, sia pure in campi diversi e sia pure con alcuni punti di contatto ed eccellenti rapporti dovuti, ripeto, al fatto di una televisione che si è ispirata per un programma televisivo a questo programma radiofonico, e questo mi sembra in ogni caso di partenza un dato molto lusinghiero per la radio in generale e per questa radio, per Radio 24 in particolare. Mi pare che sì, c'è ancora un frammento che dobbiamo ascoltare di Platini, ed è un altro molto interessante. Ricorderete che di recente il presidente UEFA aveva proposto una riforma dei calendari, una riforma radicale che uniformasse i calendari del mondo e non solo quelli europei, e che quindi si articolasse su una stagione che poteva cominciare grosso modo un po' prima della primavera, diciamo febbraio, per chiudersi sempre grosso modo alla fine dell'autunno, e quindi intorno al mese di novembre. Non ci sono state grandi accoglienze a queste proposte, nemmeno da parte italiana, per ragioni di caldo, per esempio, per ragioni di estate, per ragioni di vacanze, per ragioni di temperature, di latitudini, eccetera. E Platini è rintervenuto su questo argomento. Sono curioso io per primo di sentire che cosa ha detto. Questo non ne abbiamo parlato del calendario. Io avevo parlato solamente di una cosa che dopo è stato ripreso da parecchi giornalisti. Avevo parlato della Coppa del Mondo in gennaio. Perché giocare in Qatar in giugno, mi sembra anche voi, se l'Italia si qualifica e venite, dunque a 55 gradi fuori è duro. Dunque io solamente ho detto va bene, si può fare in inverno, ma non vuol dire che dobbiamo cambiare tutto. Dipenderà dalle associazioni, dei club, ci sarà un discorso importante, ma è un discorso della FIFA, perché il calendario mondiale è della FIFA, non è della UEFA. Questo non è difficile, si decidiamo tutti insieme. Insomma, anche questo intervento di Platini dimostra che la strada è ancora abbastanza lunga e non è detto che poi troverà una soluzione. Era una buona idea, non è detto che appunto che riesca ad andare in porto. La situazione, tra poco vi darò anche il programma di Coppa Italia, anzi potrei cercarlo subito, perché attraverso gli arbitri designati per queste partite abbiamo così il calendario completo, che inizia stasera con Palermo-Parma, prosegue domani con Sampdoria-Milan alle 17.30 diretta da Mazzoleni, Napoli-Inter alle 20.45 sempre di domani con l'arbitro Valeri di Roma, e poi il gran finale con Juventus-Roma giovedì sera all'Olimpico di Torino. Il ripasso di sport affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 25 gennaio 1931. A Bologna gli azzurri di Pozzo umiliano in amichevole la Francia, infliggendole un 5-0. Tra gli artefici del successo, il centrattacco dell'Inter Giuseppe Meazza, autore di una tripletta, e l'oriundo juventino Renato Cesarini, che festeggia il debutto in nazionale con la rete del 4-0. Sarà proprio grazie a un suo gol decisivo con la maglia dell'Italia, al 90° di una gara con l'Ungheria nel dicembre di quello stesso anno, che nascerà la fortunata espressione «Zona Cesarini». Se c'è stata un'espressione, come dice bene Nicola Filippone, che ha avuto fortuna nella lunga storia del calcio italiano, è quella della zona Cesarini, perché insomma, oggi, per prima di ribattezzarla, non so, recentemente io stesso ho usato l'espressione zona Mazzarri, ma dopo parecchie vittorie o pareggi del Napoli, comunque dopo parecchi gol del Napoli consecutivamente in minuti finali o in minuti di recupero, come oggi usa e allora non usava. Invece a Cesarini bastò un gol, chissà perché, c'era evidentemente un souvenir immaginifico quel giorno allo stadio di Torino nel 31, quando Cesarini al 90° segnò quel 3-2 all'Ungheria, gli venne in mente di ribattezzare quel gol come realizzato in zona Cesarini, e da allora nei decenni si continua ad usare questa espressione, ripeto, dovuta ad un solo gol, non a una serie come oggi invece può accadere, perché si scomodi quel genere di terminologia. Un attimo di pazienza a due amici già collegati da Torino e da Palermo, perché mi sposterei un attimo a Bologna per sentire sul futuro del Bologna il commento del presidente onorario, che è insomma uno che si chiama Gianni Morandi. Direi che tutti i consiglieri del Bologna sono unanimi per andare avanti, tutti unanimi per andare avanti, per cercare di mandare avanti il Bologna, questa è la cosa più importante. Io penso che Pavignani resterà presidente, poi ci sarà un'assemblea il 2 di febbraio, per ora va tutto bene, tutto avanti. Cosa mi hai detto? Non mi ricordo. Non ce l'aspettavamo, però lui rimane socio e forse parteciperà poi anche lui alle sorti del Bologna in futuro, sicuramente. Fulmine a ciel sereno, certamente, la partenza di Zanetti 20 giorni dopo l'insediamento. Andiamo a Torino, Michele, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io le volevo parlare del gioco eccessivamente duro che si sta vedendo in questi ultimi tempi sui campi di calcio. Sì. Domenico ha assistito alla partita Sampdoria-Juventus e ha offerto un vasto repertorio di queste scene. Sì. Ad esempio, prendo l'episodio più tecnico per tralasciare gli altri. La famosa spallata di Chiellini su Macheda, che è stata giudicata robusta ma regolare, al di là della partita che lascia il tempo che trova, io, il mio timore è che quando noi andremo a giocare all'estero, con le, nelle competizioni europee o meglio ancora con la nazionale, queste, questi episodi verranno giudicati un po' diversamente e sicuramente ci far, ce lo faranno pagare un, abbastanza caro. L'impressione è che saranno giudicate un po' diverse. Non so cosa ne pensa lei. Ma Michele, questo modello di arbitraggio che quest'anno Braschi ha importato in particolare in, in Italia, in realtà è mutuato proprio dall'esempio europeo, e cioè il designatore nuovo ha detto agli arbitri: fischiate meno, fischiate sempre di meno, perché all'estero il calcio è più fisico. In linea di massima mi sembra di, insomma, che si possa essere abbastanza d'accordo. Poi ogni tanto c'è qualche tracimazione e non c'è dubbio che domenica a Genova, lì l'arbitro deve essere molto bravo, perché è giusto lasciar correre, lasciar giocare di più, però a patto di capire fin dall'inizio che qualcuno di troppo non comincia ad approfittarne. Credo che Sampdoria Juventus andasse arbitrata, capita com'era l'aria, andasse arbitrata con maggiore severità. Francesco da Palermo, chiudiamo con lei, buongiorno. Dottore Garanzini, buongiorno. Buongiorno. Ritornando a calcio inglese, io volevo dire questo, che poco fa parlavate di Barbato, tutti questi cannonieri inglesi, ma avete visto tecnicamente le squadre ultime in classifica quanto sono allucinantemente scarse? Io ho visto giocare il Cesena in queste due partite con l'Inter e con il Milan, ma guardi che se non ero tifoso dell'Inter diventavo tifoso del Cesena, come giocano questi ragazzi, è una meraviglia vederli. Sì, il Cesena ha fatto due buone partite a, a San Siro, indubbiamente. Io poi su questi paragoni, che le ultime del nostro campionato sono molto più forti delle ultime degli altri campionati, non sono granché d'accordo, come valore assoluto, anche se le controprove non ci sono, beh, vedere, non so, il Lecce col Wolverhampton piuttosto che il Brescia con non so, vediamo chi di lassù, ma non soltanto inglese, magari anche tedesche. Ci sono già troppe coppe e troppe competizioni internazionali, questa almeno per il momento ce la risparmiamo. Grazie del suo intervento, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.